Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Anche la Caritas di Padova, come tutta la Chiesa diocesana, è incamminata sul percorso lanciato sabato scorso nell'Assemblea diocesana di inizio anno, in questa sosta che la rinfranca. E la Caritas sta già predisponendo i materiali per il prossimo tempo di avvento, che inizierà con la fine di novembre. L'avvento è un tempo forte, quello che porterà al prossimo Natale. Quest'anno tra l'altro Natale cade di domenica. L'avvento porta con sé tanti significati e valori che spingono verso l'alto l'asticella delle aspettative e il desiderio di preparare con cura le iniziative dedicate. Ci sono diversi materiali, alcuni già disponibili, altri in preparazione e in prossima distribuzione. Materiali che nascono con l'intento di offrire un'occasione di sosta, appunto il tema dell'anno, per crescere nella carità. Lo ha ricordato anche il Vescovo Claudio nel corso del suo intervento sabato mattina in assemblea. La sosta, quando si cammina, quando si viaggia, è l'occasione che permette di prendere più consapevolezza del dove sono, cosa faccio, perché lo faccio, con chi sono e chi sono. In questo senso le proposte sono degli spunti di sosta che possono aiutare ad illuminare meglio in una o più di queste direzioni. Queste proposte rivolte appunto ai sacerdoti, ai catechisti, ai volontari, agli animatori della Caritas, agli educatori, agli animatori liturgici, a tutti coloro che in qualche modo hanno un impegno pastorale in parrocchia o in vicariato. Magari anche solo un'intuizione da cogliere da queste proposte che possa aiutare a vivere e condividere un'occasione di sosta durante l'avvento, e che questa sosta possa contenere l'essenziale, cioè l'espressione concreta e viva dell'amore di Gesù. Passiamo agli aspetti pratici prima di arrivare ai contenuti. Gli aspetti pratici riguardano il fatto che i materiali quest'anno non verranno spediti per posta. Ci sono tre incontri per la presentazione e la consegna delle cartelline con le schede e i poster. Il primo incontro è dopodomani, giovedì 6 ottobre, alla parrocchia del Redentore di Monselice, dalle 20:30. appunto per la zona sud della diocesi. Per la zona nord invece l'appuntamento è lunedì prossimo 10 ottobre, sempre alle 20:30, nella parrocchia del Sacro Cuore a Romano De Zellino, nel teatro in via Lanzarini. Giovedì 13, terzo e ultimo incontro, alla parrocchia della Mandria a Padova in via Armistizio. Le parrocchie che non potranno essere presenti in nessuna di queste tre occasioni potranno ritirare i materiali presso la sede della Caritas in via Scovado a Padova. Ci sono le schede che poi saranno online sul sito caritaspadova.it, anche appunto per la tecnologia, davvero per i più distanti o coloro che proprio non riescono a trovare nessuna delle soluzioni di presenza fisica online. Appunto dal 13 ottobre saranno anche le schede. In cartellina non c'è tutto, ci sono alcune cose che invece già online sono, come ad esempio la guida Accendi il Cuore, che è stata predisposta proprio dalla Caritas di Padova e dalla pastorale giovanile, una mappatura delle realtà di solidarietà e volontariato della diocesi divise in aree territoriali, appunto per la zona centro, zona nord, zona sud, zona est della diocesi, con tante informazioni utili per orientarsi e mettersi in contatto. Sul sito invece servizisolidali.pd.it c'è una vera e propria mappatura tramite Google Maps curata dal Centro Servizi Volontariato di Padova e dalla Caritas, con tutta la presenza delle associazioni di volontariato del territorio. Ecco, visto dall'alto, il Veneto, almeno per quanto riguarda il territorio di Padova, dà un totale di circa 6.000 realtà, e quindi davvero è praticamente impossibile non incrociarne almeno una di queste proposte che sono sul territorio. Ci sono anche dei materiali che si possono prenotare: il calendario per la preghiera in famiglia, il regalo per la Chiara Stella, che è un'altra attività tradizionale del tempo di avvento e prima di Natale. queste hanno un costo di 15 o 10 centesimi all'uno. Bisogna prenotare a segreteria@caritaspadova.it entro il prossimo 25 di ottobre, e appunto questi materiali si potranno ritirare o presso sede Caritas oppure in occasione dell'assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali, che è in programma sabato 12 novembre all'Opsa di Sarmeola di Rubano. All'interno appunto del sito caritaspadova.it materiali ulteriormente disponibili sono le cosiddette pillole digestive, cioè delle piccole schede con dei suggerimenti per gli incontri per i bambini dai 6 ai 10 anni, per gli adolescenti dagli 11 ai 13 o invece per i gruppi dai 14 ai 19 anni. E poi c'è la proposta Up and Up, che è stata condivisa appunto dalla pastorale giovanile e dalla pastorale delle vocazioni, già presentata in occasione della GMG, un semplice e pieghevole con tantissime proposte, comprese quelle dell'Azione Cattolica, per tutti i giovani oppure divise per fasce di età. E anche qui, oltre alle proposte spirituali, ci sono occasioni importanti anche di servizio, come la proposta Viaggiare per condividere piuttosto che il Capodanno Caritas. Anche questo materiale, ripeto, sul sito www.caritaspadova.it cliccando su Animazione Avvento. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.